Fantascena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Michele Zanlari di Officine Ubu, che distribuisce il film La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Aynouz al cinema da giovedì 12 settembre 2019. Michele, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Ma guarda, prima di tutto ti devo dire la verità, che ho cercato un po' in tutti i modi di tenermi a distanza da questo film, perché a volte incontri quei tipi di film che richiedono anche un investimento emotivo molto forte, e allora ho pensato che a volte si va al cinema, no, per mettere da parte la vita, qualche piccolo problema, e quando invece trovi un film che ti pone un sacco di domande, che ti coinvolge in modo così intenso, ti può anche spaventare un po'. Allora noi all'inizio l'abbiamo un po' tenuto lì, e invece l'abbiamo comprato quando abbiamo capito che non si poteva che rispondere affermativamente a questa domanda dei sentimenti, del cuore. È un piccolo film brasiliano, è un film brasiliano importante, perché quando l'abbiamo preso era sconosciuto, ma poi ha vinto il Sertão Regão. Quest'anno era la sezione più interessante sicuramente del Festival di Cannes, una sezione che ha rilanciato molto i temi, ad esempio, del cinema femminile. C'erano tanti film importanti, ha vinto questo diretto da Karim Aynouz, ma secondo me è uno straordinario autore. È stata una sorpresa, ne siamo incredibilmente felici. Forse non è proprio un film per tutti quanti, non vogliamo far finta che sia un film commerciale, però è uno di quei film che ti resta molto dentro, e dico anche due cose della storia, anche se è meglio non raccontarla tutta. Certo. È ambientato nel Brasile degli anni 50, un Brasile patriarcale, anche duro, dove due sorelle vivono la loro vita e sono costrette a separarsi. Del regista cosa altro conosciamo? Lui è un regista che non è mai stato in Italia, ha fatto un altro film che era andato alla Berlinale, dove era piaciuto molto. È un regista che lavora moltissimo sui temi dei rapporti umani, e guarda, di questo film hanno impressionato diversi aspetti. Se dovessi farti un racconto un po' da critico cinematografico, dovrei dire che è uno dei pochi registi che riesce a costruire delle sequenze con un quadro di grande profondità, con un uso della fotografia saturata molto particolare, che riesce a darvi una sensazione di un cinema antico, ma anche con una modernità molto forte. Invece da distributore di lui vorrei raccontare che è una persona che cerca le storie soprattutto, e che anche se racconta delle storie che sembrano lontane da noi, finiscono col dirci cose molto molto precise. All'estero che risultati ha ottenuto? Il film sta uscendo un pochino in questo periodo, nel senso che ovviamente è stato comprato a Cannes, c'è un'uscita brasiliana, ma ancora non sappiamo che impatto generale abbia sul mercato, e anzi l'Italia è uno dei primi mercati a proporlo in modo così importante, anche con le tantissime recensioni positive che stanno uscendo questi giorni, che mi fanno molto piacere. In quante sale? Usciamo in una ventina di sale, che non sono tante, ma io ne sono contento, perché penso che su un film così personale non si debba finire in mano il blockbuster, ma il discorso sia con il pubblico che con gli esercizi, un discorso molto sincero per le sale giuste, un incontro con il pubblico che sarà graduale e poi si allargerà di settimana in settimana raggiungendo più città. E allora ricordiamo il film La vita invisibile di Euridice Gusmão di Karim Aynouz al cinema da giovedì 12 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Michele Zanlari di Officine Ubu che lo distribuisce. Michele, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, ciao. Con Fabrizio Grosoli, direttore artistico della quinta edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, immagini dalla realtà, a Milano dal 12 al 15 settembre 2019. Fabrizio, ben trovato. Eccomi, ben trovato a te e a tutti voi. Raccontiamo cos'è questo festival. Il festival, appunto, come dicevi tu, è un festival dedicato interamente al cinema documentario. Siamo appunto alla quinta edizione. Il festival ha avuto da sempre una vocazione per valorizzare il cinema documentario italiano, in particolare perché fin dalla prima edizione il concorso era riservato a produzioni italiane indipendenti. Da quest'anno abbiamo anche un concorso internazionale e quindi diciamo siamo entrati in una fase di maturità, se vogliamo. Per quanto riguarda le opere, quante saranno quelle presentate in questa edizione? Dunque, in questi 4 giorni, quindi da giovedì a domenica, noi presentiamo una trentina di film che sono tutti in anteprima italiana e per quanto riguarda ovviamente i film italiani sono in anteprima assoluta e sono divisi nelle sezioni che dicevo, cioè i due concorsi, quello nazionale che si svolge al Teatro Vitta di Milano e quello internazionale che si svolge prevalentemente al Museo della Scienza e in più naturalmente ci sono anche diverse anteprime di film fuori concorso, anche perché noi tradizionalmente abbiamo una partnership importantissima con Rai Cinema, che resta il principale produttore di cinema documentario indipendente in Italia, e anche naturalmente con Cinecittà Luce, che per quanto riguarda sia la produzione che la distribuzione resta uno dei poli di riferimento. E quindi da lì ad esempio ricordo la anteprima che è in programma venerdì sera del film dedicato a Mario Pirani, L'uomo che visse 3 volte, che è appunto una produzione del Luce. Su che mole di opere avete lavorato? Quali sono stati poi i criteri di selezione? Ma diciamo che la identità del festival che si è costruita fin dalla prima edizione è, diciamo così, rivolta e pensata al cinema documentario che racconta storie del mondo contemporaneo. Quindi noi preferiamo raccontare appunto storie, sia storie, diciamo così, private che invece, diciamo così, storie che riguardano grandi temi della cultura e della società contemporanea, con un occhio anche a quelle che possono essere poi, diciamo così, le tendenze del prossimo futuro che riguarda tutti noi. Quindi è un festival che naturalmente vuole mostrare dei film belli, ma anche importanti, ma anche che, come si dice, no, spesso in altri paesi, che contano, che possono avere un impatto anche su pubblici diversi, per così dire. Come sarà strutturato il festival rispetto agli orari e ai luoghi? Dunque, innanzitutto il festival è totalmente a ingresso libero e quindi questo è importante sottolinearlo. Il concorso italiano viene programmato nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato al pomeriggio, dicevo, al Teatro Vitta. I film internazionali sono programmati venerdì, sabato e domenica, sempre in orari di pomeriggio e sera, al Museo della Scienza. Le anteprime sono naturalmente in orario serale. Noi abbiamo anche degli incontri e delle masterclass. La masterclass è dedicata quest'anno a Gianfranco Pannone, che ha presentato recentemente a Venezia Scherza con i Santi, e la particolarità della masterclass di quest'anno è che in realtà è una masterclass a 2 voci, perché interverrà anche Ambrogio Sparagna, il musicista, e quindi il tema sarà proprio come può nascere una collaborazione artistica molto stretta e molto fertile tra un musicista e un documentarista. Poi ci sarà anche un incontro sul, diciamo così, sulla declinazione al femminile del documentario di oggi, con la partecipazione di Adele Tulli, di cui riproponiamo Normal, e anche di Antonietta Velillo e Vilma Labate. Secondo noi c'è un modo di rappresentazione

Ecco, questo progetto fallisce e si porta con sé come conseguenza la caduta di tutti coloro che, anche non conoscendosi l'un l'altro, lavoravano in qualche modo a questo progetto. Questo è un aspetto del film. L'altro è un aspetto che potrei definire di fantascienza nel contemporaneo, perché il film parla anche dell'infinity life, cioè delle ricerche, delle nuove prospettive che ci riguardano, che riguardano tutti, della ricerca della fine della morte. Il sottotitolo del film potrebbe essere La morte alle ore contate. Queste ricerche in atto da qualche anno che con la biotecnologia lavorano a far sì che le generazioni future possano sperare di vivere molto molto più a lungo di quanto sia successo fino ad ora. Ecco, questo in sintesi. Come ha avuto origine tutto? Beh, l'origine è doppia. Io una decina di anni fa seguì per qualche tempo un effetto domino reale. Questo riguardava un piccolo gruppo di famiglie che lavoravano insieme, contrariamente a quanto succede nel libro e poi nel film. Lì l'usura e il mancato pagamento di alcune commesse mettevano dei guai in capofila di questo progetto. L'effetto domino si scatenava, riguardava anche le famiglie degli implicati, quindi con deflagrazioni nei nuclei familiari, appunto. Anni dopo ho letto il romanzo di Romolo Bugaro e ho trovato su carta, e con una strutturazione molto interessante, quello che io avevo visto nella realtà. Da lì è partita l'idea di farne un film di finzione. Allora, 10 anni fa, il progetto documentario non poteva partire. Il romanzo vedeva, diciamo, come scenario del grande progetto edilizio la costruzione di una new town. Io invece ho scelto, come dicevo prima, che il grande progetto edilizio fosse il recupero di una serie di grandi alberghi che si trovano nella zona termale a sud di Padova, che non è conosciutissima, ma è una delle zone termali, ad esempio, con il maggior numero di alberghi destinati agli ospiti. Ci sono queste vestigia, questi alberghi degli anni 70 ormai in disuso, sorprendente che lo siano, e quindi il grande progetto di edilizio si è calato lì. Ho trovato una scenografia e un territorio reale dove ambientare il film. Ci hai parlato prima di due aspetti, ecco, su cosa hai voluto centrare l'attenzione rispetto alla storia? Beh, la storia ha un protagonista e dei coprotagonisti molto vicini anche per ordine di presenza sulla scena, quindi molto probabilmente la linea umana e quindi le vicende di questo imprenditore Franco Rampazzo, della sua famiglia e del suo sodale Colombo, il geometra che lavora con lui, è forse il centro dal punto di vista umano della vicenda. Poi c'è un aspetto legato alla finanziarizzazione dell'economia, alla perdita di importanza del lavoro propriamente detto, che contorna questa vicenda umana. Poi dal punto di vista registico ho incentrato il lavoro sulla performance attoriale, perché è un film corale e diciamo che ora sono veramente molto molto felice di come tutti gli attori hanno lavorato. È un film al quale tutti quelli che hanno lavorato davanti alla macchina da presa hanno dato moltissimo. In quante sale? Per ora in una ventina, soprattutto nel nord Italia. Però a breve la distribuzione, confidiamo, si amplierà, raggiungerà, credo, la prossima settimana Roma, anche altre città del centro Italia, forse al sud. Insomma, il film ha un medio raggio per ora di distribuzione. Effetto domino al cinema da martedì 3 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Rossetto. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci. con Igor, regista del film 5 è il numero perfetto, al cinema da giovedì 29 agosto 2019. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Come lo racconteresti brevemente a chi ci ascolta per presentarlo? Ma è un film che si ripropone di lavorare su alcune tematiche care al genere, agli action movie, così. Ma dentro questo c'è la storia di un vecchio killer in ritiro che vive per il figlio praticamente, e la cui scomparsa improvvisa, un agguato, innesca una serie di scintille che determineranno una possibile redenzione, una possibile rinascita. E la storia, una storia universale secondo me, delle seconde occasioni che ci vengono offerte su un vassoio scintillante di dolore a volte dalla vita. Quindi è una storia di un uomo che credeva di aver capito tutto della vita e poi si rende conto di non aver capito niente e che trova forse un'altra possibilità di vivere e di comprendere il reale. Ci racconti anche un po' tutto il percorso che ha portato al film? Ma vabbè, è una storia lunghissima, è una storia di 15 anni, ho fatto un libro che ho cominciato a disegnare in Giappone nel 94 e questo libro poi è stato terminato nel 2002, pubblicato con una certa fortuna in molti paesi d'Europa, America, Asia, eccetera, e sono cominciate da allora una serie di proposte di adattamento cinematografico. Evidentemente aveva un interesse particolare sia in Italia che all'estero, perché aveva questa possibilità di scavare molto un personaggio, quindi per un grande attore di una certa età era una possibilità bella. E poi ci sono state moltissime opzioni, proposte di collaborazione. A un certo punto io non volevo farne la regia, a me interessava molto scriverlo, però non ero convinto di stare dietro la macchina da presa per una questione di tempi, perché io scrivo e disegno e gestisco i miei tempi senza dover rendere conto a nessuno. Invece nel cinema, una volta che la produzione parte, ci sono una macchina gigantesca con centinaia di persone che ci lavorano e questa cosa quindi determina dei tempi molto costretti e contenuti, diciamo. E poi ci sono state varie opzioni, vari registi. Mi sembrava molto spesso che la traiettoria e nel modo di guardare la storia, di affrontare in generale questo tipo di racconto, ci fosse uno sguardo così un po' appannato, comunque distante da come la vedevo io. Quindi dopo tanti anni mi sono deciso a fare quello che Tony Servillo mi aveva detto da subito, cioè fare da me la regia, perché sapevo un po' come guardare la storia, eccetera. E così 2 anni fa ci siamo messi all'opera e il film adesso è nel salto. La trasposizione cinematografica, su cosa hai voluto centrarla rispetto al fumetto? Beh, va bene, sono 2 linguaggi completamente diversi, anche se non fosse altro per il rapporto che si ha con il mezzo, cioè io spettatore sono al buio in una sala gigantesca con uno schermo che è grande 20 volte me e lo scorrere del film è continuo, mentre invece con un libro tu sei molto più grande del libro, lo prendi, lo sfogli, puoi fermarti, tornare indietro, ti puoi distrarre, insomma è un tipo di percezione completamente diversa, senza contare il fatto che poi il cinema ovviamente contiene elementi molto suggestivi come il suono, la musica e anche un certo tipo di montaggio molto rapido che può essere molto avvolgente. A me interessava nel raccontare questa storia al cinema usare il linguaggio cinematografico il più possibile e sfruttarlo per le sue caratteristiche. È una dimensione che mi ha sempre affascinato. Io sono un grande frequentatore del cinema, delle sue suggestioni, delle sue narrazioni, quindi era una sfida interessante e affascinante. Poi avere degli attori così importanti modifica proprio certe cose, diciamo, non c'è neanche bisogno di fargliele dire, perché basta uno sguardo e riescono già a esprimere molto del senso di una certa sequenza che vuoi fare o scena che vuoi girare. Da autore, visivamente, che impressione ti ha fatto il film finito rispetto al libro? io non sono uno spettatore, sono quello che l'ha fatto, quindi è un po' difficile per me avere un'impressione, l'ho costruito pezzo per pezzo, mattoncino per mattoncino, quindi non ho nessuna distanza, cioè io l'ho fatto e non sono uno spettatore. Un elemento importante che accarezza il genere è quello della colonna sonora. Sì, la colonna sonora con i musicisti che sono T-Rose e Startuffo, sono due musicisti produttori con cui, produttori musicali con cui io lavoro da tanto tempo. Lui T-Rose, il vero nome è Rosario Castagnola ed è un napoletano doc, e lei è Sara Startuffo. Startuffo è parigina di origine corsa, di distanza a Napoli da 10 anni, abbiamo lavorato con loro con l'idea di costruire una colonna sonora anni 60-70 nella piena tradizione italiana. Loro sono dei musicisti molto validi, molto preparati, e quindi quando io li ho invitati a fare un viaggio nel tempo per misurarsi con questa dimensione musicale che doveva essere non soltanto un commento sonoro ma parte fondante del racconto, ci si sono tuffati, hanno composto 83 brani arrangiati per orchestra o per piano solo, insomma in varie possibilità di utilizzo. Ci sono stati dei temi che sono stati identificati come il tema di Nino, il tema di Peppino, eccetera, dei vari personaggi che ritornano come nella tradizione del vecchio cinema e vengono riarrangiati diversamente a seconda del mood della scena. È stato un lavoro lunghissimo e molto appassionante, credo che loro ci si siano divertiti. Loro avevano già lavorato con Garrone, avevano già lavorato con i fratelli Manetti e anche per la serie Gomorra televisiva, ma soprattutto avevano già lavorato con me da 20 anni, perché sono i musicisti con i quali io pubblico i miei dischi. I risultati di questi primi 10 giorni? Ma sai, è stato presentato all'inizio, è stato presentato a Venezia, le giornate degli autori, abbiamo aperto il festival praticamente. Cioè, il cinema è un grande circo, tantissime voci, mababele, commenti entusiastici o appunto persone che ti fermano per la strada, che ti dicono che hanno visto il film. È tutto molto diverso da come io vivo normalmente, è uno spettacolo molto variopinto, divertente, folcloristico, anche molto faticoso. Io nel fare i libri sto dietro, non sono così esposto, diciamo, come nel cinema. Il cinema invece è una specie di circo funambolico nel quale c'è anche molto ego e molta presenza. Vedo che c'è una grande voglia di partecipare a questo circo da parte di tanti. Io sono divertito da questo, ma diciamo non sono necessariamente ipnotizzato, anche se il cinema chiaramente come macchina, diciamo, di produzione di sogni è molto affascinante perché è una grande orchestra, quindi quando lavori con grandi talenti come gli attori Carlo Cucirosso, Valeria Golino, Tony Servillo e anche tutti gli attori, diciamo, di secondo ruolo che sono stati scelti con molta attenzione e che hanno un grande talento, questa cosa ti riempie, ti dà molta energia. Ecco, poi Nicolai Bruel è stato il direttore della fotografia con la quale abbiamo praticamente definito l'immagine visiva, il mood visivo, il narrativo del film, e con lui c'è stata una grandissima sintonia, così come anche per i costumi, con Nicoletta Taranta che era la costumista di Romanzo Criminale, eccetera. Non è semplice reinventare il genere o riproporre il genere, diciamo, con uno sguardo moderno. A me la cosa che interessava era creare un'immagine, un impatto visivo e narrativo, diciamo, personale, e quindi non stare in questa specie di visione comune del cinema italiano, che è molto interessata a certe tematiche e non lavora tanto certe altre, ecco. Ricordiamo 5 il numero perfetto al cinema da giovedì 29 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Igort. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo, un abbraccio a voi. Con Vincenzo Sacco di Altre Storie, che distribuisce il film Mademoiselle di Park Chan Wook al cinema da giovedì 29 agosto 2019. Vincenzo, ben trovato. Ciao, ben trovato a te Federico. Ci racconti brevemente la storia, la trama di questo lavoro? Sì, la trama è uno dei punti forti di questo film, insieme allo stile inconfondibile di Park Chan-wook. Sostanzialmente la vicenda ruota intorno allo stratagemma messo in atto da una giovane donna dei bassi fondi in Giappone e di un truffatore, ovvero fa in modo che questa giovane donna venga assunta come serva presso una facoltosa nobildonna giapponese, con l'obiettivo ovviamente di sottrarle tutto il patrimonio, soltanto che non hanno fatto bene i conti con la situazione anche familiare, se vogliamo, di questa nobildonna giapponese che vive con uno zio tirannico, questa sorta di padre padrone di Hideko, e non hanno fatto i conti anche con lei. Che storia ha avuto all'estero questo film? Guarda, noi abbiamo conosciuto questo film e ci siamo innamorati immediatamente alla 69esima edizione del Festival di Cannes, dove il film era stato presentato. E difatti sin da subito con i nostri partner, ovvero Film 9 di Giorgio e Vanessa Ferrero, che hanno acquisito il film, noi sin da subito siamo entrati in distribuzione perché non potevamo perdere un'occasione del genere, cioè di riportare in sala il maestro Park Chan-wook dopo diversi anni, riportarlo in sala in Italia, appunto dopo parecchi anni dalla conclusione della sua trilogia della Vendetta e della sua incursione hollywoodiana, ma soprattutto dopo tanti anni da Hellboy. Quali sono gli elementi di valore secondo te di questo film? Sicuramente, come dicevo prima, al di là della trama, anche lo stile unico di Park Chan-wook, ovvero uno stile che presenta una commissione perfetta tra quella sensibilità orientale e quel gusto occidentale, creando un perfetto sincretismo di generi, di gusti. Tra l'altro lui con una maestria unica riesce veramente a navigare dal thriller con alcune venature anche di commedia, ovviamente all'erotico, al sentimentale, scandendo tutti con colpi di scena in maniera veramente serrati, che continuamente ribaltano il punto di vista della storia. E quindi sicuramente il punto di forza di questo film è la mano del suo regista, oltre ovviamente a delle interpretazioni fenomenali. In Corea come è stato accolto? Beh, in Corea Park Chan-wook, è sempre nella propria patria, quindi anche in sala, proprio perché oramai è uno dei migliori registi coreani e richiesti in tutto il mondo. Ricordiamo che fu scoperto tra l'altro proprio da Quentin Tarantino, che quando vide Hellboy al Festival di Cannes, questo è il film che avrei voluto fare io. Chiaramente un endorsement del genere che rende un regista del genere già amato in patria, anche uno dei più richiesti registi orientali al mondo, è indubbio che un film come Mademoiselle ha avuto le porte schienate poi in tutti i paesi dove è uscito. Ci racconti anche un po' della realtà di Altre Storie? Certo, la società Altre Storie nasce come società di produzione cinematografica e tuttora produce diversi film, cortometraggi, in collaborazione anche con il cinema. Dal 2017 invece ha avviato la divisione di distribuzione e anche lì con Rai Cinema e con altri partner come Leone Film Group, con Lotus, con Sanso Versace e Luca Curti di Minerva Pictures, abbiamo portato in sala diversi titoli sia italiani che internazionali. Giusto per fare due esempi, ricordo il debutto registico di Simone Spada con Hotel Gagarin, poi candidato ai tanti di Donatello, o il film prodotto da Altre Storie, Il bene mio di Pippo Mezzapesta con uno straordinario Sergio Rubini, mentre per fare dei titoli dei esempi di titoli internazionali ne potrei fare diversi, ma in ordine sparso posso citare il debutto registico di Natalie Portman con Sognare e vivere, l'ultimo film di Claude Lelouch, Parliamo delle mie donne, fino appunto a Tulip Fever, La ragazza dei tulipani, scritto da Tom Stoppard, dall'autore di Shakespeare in Love, che vedeva tutti insieme nell'Olanda dell'Ottocento recitare Christoph Waltz, Alicia Vikander e Judi Dench. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Mademoiselle di Park Chan-wook. 29 agosto. da giovedì 29 agosto 2019 al cinema con Altre Storie. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Sacco. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per parlare del film The Rider, Il sogno di un cowboy di Chloe Zhao, al cinema da giovedì 29 agosto 2019. Anastasia, ben trovata. Grazie, ciao a tutti. Che film è questo? È la storia di Brady, che è un cowboy del South Dakota, ma è anche la nostra storia. E tu dirai, ma cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra? No, cosa c'entriamo noi con un cowboy nel South Dakota, in una comunità antica dove c'è questo grande amore per i cavalli e si passa il tempo a cavalcare? E invece io che ti rispondo dicendo che chi di noi non è mai caduto da cavallo? La storia infatti è di una caduta, è la storia di una caduta. Brady, che è già una stella, fin da giovane, ha sempre cavalcato, ha vissuto la vita cavalcando e da questa grande passione appunto per i cavalli, subisce una brutta caduta e quindi a seguito della caduta ha un bruttissimo intervento alla testa. Si inizia proprio quando questa cosa è già avvenuta e insieme a Brady, quindi viviamo con lui tutto il percorso per cercare di in qualche modo superare questo ostacolo, questo grosso ostacolo. Però la vita a un certo punto non apparentemente non ha più senso, il tuo sogno sai che forse non riuscirai mai a realizzarlo, perché risalire a cavallo per lui, che comunque era già una stella, era già diventato bravissimo, mi è riconosciuto per la strada come uno proprio vende autografi, proprio è la star del mondo dei cavalli, improvvisamente vede che la sua vita deve prendere un'altra direzione. E da una parte quindi cerca di andare incontro a questo sogno e non si riesce ad allontanarsene, a lavorare assieme ai cavalli comunque, cavalli bizzarriti, ad addestrarli, dall'altra invece cerca dei percorsi alternativi. In tutto ciò nel mezzo naturalmente ci sono tutte le relazioni personali che lui ha con la sua famiglia, c'è la figura della sorella che è molto importante e dell'amico che ha subito più o meno la stessa esperienza. È un film molto molto potente, molto ruvido ma tenerissimo, infatti è incredibile come ci si riesca a immedesimare in questo personaggio e a vivere insieme a lui e a trovare tutte le affinità nella propria esperienza di vita, seppur lontanissima ovviamente, perché appunto noi qui nel nostro mondo, con South Dakota, abbiamo ben poco per spartire, insomma. Il film è veramente stupito e piaciuto a tutto il mondo, siamo in Italia, siamo in realtà un po' tra gli ultimi questa volta a vederlo, nel senso che è stato presentato a Cannes, alla Cannes già nel 2017, è stato accolto con molto entusiasmo dalla critica internazionale e dal pubblico, tutti i paesi in cui è uscito, negli Stati Uniti addirittura nel 2018 il National Critics, quindi il gruppo insomma che riunisce tutti i critici cinematografici americani, l'ha ritenuto il film più bello del 2018. E i concorrenti non erano proprio, tra i competitor c'era Cuarón, c'era Roma di Cuarón, eppure hanno ritenuto che fosse Rider il film più bello dell'anno, il best film, è uno dei premi più prestigiosi americani e anche nel mondo. E niente, adesso finalmente arriva qui, sono molto contenta e non vedo l'ora di sapere quali sono le reazioni del pubblico, anche se alcune anteprime le abbiamo già organizzate e c'è stata una buona risposta, la critica italiana anche lo sta amando moltissimo, ci sono delle recensioni bellissime scritte proprio col cuore, con un'intensità incredibile. Io anche sono stabiliata da quanto siano belle anche le recensioni che leggo ormai tutti i giorni, e vedremo come andrà a finire questa nuova avventura, questa nuova cavalcata. Senti, quali sono a tuo avviso gli elementi di spicco qualitativi di questo film? Allora, a parte che straordinario, se pensi che la regista, che tra l'altro nel suo tempo è lanciatissima nel mondo del cinema, cioè sta girando film, di cui uno con la Marvel, quindi è proprio per partita, per il fermamento del cinema internazionale, e questo era il suo secondo film, e quindi è una, non ti dico un esordio, ma un quasi esordio. Straordinario, diciamo, lo sguardo di una regista comunque cinese, seppur americana, nel senso che lei aveva sempre vissuto negli Stati Uniti, su questa America profonda, no? Come il mito del West, il mito dell'uomo forte, che è tutta una cosa che viene completamente un po' ribaltata, un western oggi cos'è rimasto del western, è, secondo me, è questa cosa qui, ed è molto interessante il fatto che lei, diciamo, che gli attori non siano attori professionisti, ma che siano proprio, è incredibile, perché se vedi il film poi non ci credi neanche, siano proprio i veri protagonisti di queste storie, quindi è una storia vera. Brady è Brady, cioè è la persona che ha vissuto questa esperienza, è caduto da cavallo, ha la cicatrice che si vede in uno di questi bellissimi primi piani iniziali, è la sua cicatrice, non ci sono trucchi scenici del suo genere, e quindi anche questa cosa è molto interessante, la commissione tra chi chiamiamolo documentario, che è un po' nella nostra linea, nel nostro DNA di Wanted, e un film di finzione. Questo è molto interessante, il discorso anche sul western, il fatto che Insaputo non sia un genere, non lo potrei definire western, ma usa questo in qualche modo, la tradizione di questo genere, per reinventarsi qualche cosa di diverso e attualizzarla. E a me personalmente piace molto anche l'empatia che riesce a costruire con questi personaggi, che lo rendono quindi proprio molto, cioè, emotivamente coinvolgente. A me piacciono i film che in qualche modo ti smuovono anche qualcosa dentro, mi piace l'idea che ti facciano piangere in modo non semplice, perché va a toccare delle corde emotive molto sottili, molto sofisticate, ma piangi, è anche una commozione che, tra l'altro, tocca molto anche un pubblico maschile, a differenza di tante, sai, in genere si dice che sia molto, molto più per le donne, no? È più facile piangere al cinema, perché hanno, ci sarà una sensibilità per alcuni temi, alcune. In questo caso piangono tutti, perché abbiamo sperimentato a Riccione, gli esercenti che sono venuti a vederlo, erano tutti un po' con gli occhi rossi o comunque molto molto toccati da questa vicenda. Quindi mi piace molto anche questa empatia che riesce a costruire, questa emotività, questo sconvolgimento un po' che ti riesce a provocare, al di là dei bellissimi paesaggi e dell'ambientazione, che è sempre molto suggestiva. Ecco. In quante sale? Tante, se siamo attorno, tante rispetto al nostro standard, naturalmente, certo. Rispetto ai major probabilmente saranno poche, ma siamo sulle 45, non, la maggior parte parte domani, che è il 29, altri che sono magari, sono ancora, alcune città, alcuni cinema sono ancora chiusi, e quindi lo programmano della settimana successiva, quindi dal 5 di settembre, quindi dipende un po' dalle città, a Roma si va normalmente il 29. The Rider, il sogno di un cowboy, di Chloe Zhao, al cinema da giovedì 29 agosto 2019 con Wanted Cinema. Un abbraccio e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta. Grazie a voi e spero che il film vi piaccia. Ciao, ciao Anastasia. Grazie, ciao. Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment per parlare del film Charlie Says di Mary Herron, in uscita in sala giovedì 22 agosto 2019. Lidia, ben trovata. Grazie, ciao Federico, buongiorno a tutti. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, Charlie Says è centrato sulla storia della Family Manson, cioè un viaggio nella mente di Charlie Manson, che fu manipolatore e mandante degli omicidi che sconvolsero gli Stati Uniti nel 1969, tra cui l'assassinio di Sharon Tate ed altri 9 persone. E soprattutto si addentra nel psiche di questo criminale attraverso la psicologa

con Giovanna Taviani, direttrice della 13ª edizione del Salina Doc Fest, dall'11 al 14 settembre 2019. Giovanna, ben trovata. E ben trovato a te, Federico. Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è il Salina Doc Fest. È una follia, come sai bene, perché i primi anni venivi. È il festival del documentario narrativo che mi sono inventata 13 anni fa con il supporto delle amministrazioni dell'isola Salina, nel cuore delle Isole Eolie, sede tra l'altro della mitica storica prima casa di produzione dedicata al documentario subacqueo, che era la Panaria Film, quella dei corti girati alle Eolie che vinsero premi prestigiosi ai festival di Venezia nel 1947. Quindi è un festival dedicato interamente al documentario narrativo, quindi al cinema della realtà, con un concorso internazionale e eventi speciali e di letteratura. Siamo arrivati alla 13ª edizione e siamo qui pronti in preparativi per la prossima. Ok, allora raccontaci un po' queste giornate dall'11 al 14, cosa succederà? Il tema quest'anno è resistenze, con la R tra parentesi, quindi a indicare anche esistenze altre, resistenze dell'agricoltura, della natura. Salina è l'isola verde, il cappero è una pianta resistente con delle radici che affondano nell'acqua e assorbono l'acqua nel sottosuolo. Quindi inauguriamo il 10 con l'Aspettando il Salina Doc Fest con Tom Pazza, che è il regista chef, uno degli attivisti più militanti del cibo naturale, che ha fatto questo bel documentario di ormai dell'anno scorso, infatti è fuori concorso, I Villani, quindi appunto resistenza della terra, dell'agricoltura. I sempre più giovani si spostano dalle grandi città, dalle campagne, per tornare ai lavori dei padri, però appunto con le nuove regole tecnologiche, no? Anche del rispetto dell'ambiente, quindi mi sembra un indirizzo molto, molto giusto. Resistenze del cinema, del cinema della realtà, resistenze della storia e della scuola. Abbiamo una nuova sezione dedicata al cinema e storia per le scuole, con Marco Bellocchio, che è uno degli ospiti speciali di questa edizione, e Letizia Battaglia, che è la grande fotografa di Palermo, che ha fatto un bel documentario sul shooting di mafia. E poi resistenze infine appunto della cultura, in generale. Abbiamo anche un bel premio letteratura, il premio è un ospite speciale internazionale che avrà meglio sua. Bene. Quanti saranno nel complesso i lavori presentati? Non avendo una sala cinematografica, ma dovendo fare le proiezioni diurne al centro congressi, quindi avendo poca disponibilità, noi presentiamo, diciamo, tra concorso e fuori concorso tutti gli anni non più di 22 opere. Okay. 22 film. Il concorso che ha peraltro due giurie, la giuria internazionale costituita da Philibert, il grandissimo documentarista francese che avremo il piacere di avere qui, e che presenterà anche il suo vecchissimo documentario sulla scuola, Essere e Avere, no? Poi abbiamo Francesco Zizzola in giuria, che è World Press Photo, un grandissimo fotografo che tra l'altro si è cimentato nel documentario dell'anno scorso, e poi Claudio Giovannesi, premio SIAE, che poi la sera presenterà La Paranza dei Bambini come altro evento speciale, insieme ad Agostino Ferrente, che presenterà pure il premiato Selfie in piazza come evento speciale. E poi c'è una giuria femminile, questa è una novità, premio WIF, premio è un'associazione neonata sui diritti della parità delle donne nel mondo della televisione e dello spettacolo, e ci saranno appunto a valutare sempre questi documentari del concorso, che saranno 7 internazionali, tra cui tutte anteprime siciliane, una assoluta mondiale e un'altra nazionale, quindi comunque siamo sempre più facendo concorrenza anche noi dall'Isola del Sud ai grandi festival del documentario. Dicevo, saranno Kissy Dagan, produttrice statunitense, Antonietta De Lillo, che è la regista che conoscete tutti, e Valentina Carnelutti, sempre dell'associazione WIF, che valuteranno appunto il premio, il documentario migliore del concorso. Bene. In chiusura, Giovanna, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni e i dettagli? Assolutamente sì, aggiungendo anche che poi sabato 14 chiudiamo in bellezza con uno spettacolo e un concerto del co-direttore artistico di questo festival per la parte musica e spettacoli, che è Mario Incudine, che è un grandissimo musicista, cantastorie siciliano, che è sui palchi e sui palcoscenici insieme a Monio Varadia, insomma un grandissimo autore, che farà un concerto finale sabato 14 a Santa Marina. Prima una cosa molto particolare, che è uno spettacolo collettivo opera paese con gli abitanti dell'isola che abbiamo provinato e che interpreteranno sul molo di Santa Marina il ruolo degli emigranti del 1915, quando appunto gli emigranti eravamo noi. Tutto il programma dettagliato giorno per giorno sul nostro sito www.salinadonfest.it e soprattutto nel nostro sito anche tutte le strutture convenzionate, dagli alberghi ai ristoranti, che durante il festival faranno praticamente con una card che si può prendere qui a 5 euro a Salina e daranno una scontistica del 20%. Tredicesima edizione del Salina Doc Fest dall'11 al 14 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Giovanna Taviani. Giovanna, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, io ti aspetto sempre. Va bene. Ciao. Ciao a tutti. Con Stefano Virgilio Cipressi per parlare dell'avvio della campagna di crowdfunding per il suo documentario Una psichedelia nera. Stefano, ben trovato. Buonasera e grazie per lo spazio. Ci racconti di questo progetto? Sì, è un progetto che nasce ormai da diversi anni, in particolare negli ultimi due abbiamo fatto un lavoro di ricerca, un lavoro d'archivio su tutta una serie di vicende accadute nel paese. E come abbiamo scritto anche sulla piattaforma Produzione dal Basso, abbiamo raccolto circa oltre 250 storie, che sono storie di sfruttamento sul lavoro, di diritti negati, di razzismo, e abbiamo provato poi nella sceneggiatura a metterle insieme, a fare una specie di appunto di mappatura, di mappa, per dire che anche storie apparentemente lontane in realtà possono avere un filo comune. Da qui è nata la parte documentaria del film, che avrà appunto una metà documentaria e una metà di finzione. E il tema è appunto un pochino questo, cercare di raccontare l'Italia degli ultimi anni senza la pretesa ovviamente di darne una descrizione esaustiva, ma di presentare il nostro punto di vista sullo stato delle cose nel paese, diciamo. Qual era stata l'idea di partenza? Inizio con la parte di finzione, è la storia di questo operatore di una televisione, di un qualsiasi reality show, che nel momento di fare dei provini, il casting, no? Per un reality show, a un certo punto smette di lavorare e porta con sé la videocamera. Da qui ne nasce un viaggio, e ne nasce un viaggio in cui il suo lavoro, cioè quello di operatore, la sua strumentazione, in questo caso appunto la videocamera, la registrazione delle immagini, smette di essere al servizio della, tra virgolette, stupidità televisiva e inizia a servire ad altro. In questo caso questo sguardo inizia a servire per un racconto del paese, quindi c'è questo operatore che sparisce nel nulla, sembra, e la protagonista del film che va a cercarlo. Come ho scritto anche su Produzioni dal Basso, il modello, ovviamente nella maniera più piccola e umile possibile, è quello di Conversazioni in Sicilia di Vittorini, in cui un semplice viaggio in treno permette allo scrittore, attraverso dei dialoghi, delle conversazioni, di raccontare il paese in quel momento. Diciamo, il nostro piccolo scopo è un pochino questo, cioè di incontrare le persone, delle vicende che raccontavo prima, e attraverso questo meccanismo della finzione mischiata al documentario, cercare di fare di tutti questi racconti un unico racconto. E come è nato tutto l'idea proprio di un documentario su questi temi? L'idea era un po' uscire dalle secche di questo o quel racconto specifico, cioè di non fare un documentario su una sola vicenda specifica, ma c'era più l'esigenza, l'urgenza di approfondire un po' la conoscenza del paese, no? Cioè, negli ultimi anni mi è sembrato che le cose esplorassero parecchio, non che prima andassero bene, ma che su tutta una serie di temi, anche linguisticamente, insomma, le cose siano peggiorate parecchio, insomma, lo sappiamo, bene. E quindi un po' l'urgenza personale di attraversare questo paese, di andare a vedere, di andare a sentire per bocca di quelli che certe cose le vivono, che cosa sta succedendo, perché molte vicende sono assurde, e però appunto durano, hanno il tempo di uno spazio, di un trafiletto su un giornale, di una notizia su apparsa su internet, e quindi quello che ho fatto è semplicemente metterle insieme, annotarmele, e poi adesso il lavoro è quello di ripescarle, di vedere quali sono quelle che sarà possibile raccontare, però ecco, l'urgenza era quella, fare tracciare come dei fili invisibili tra una storia e l'altra, per dire che poi alla fine stiamo vivendo un tempo in cui la disgregazione, la solitudine ci fa sembrare che i nostri guai sono solo i nostri, ma in realtà diciamo i nostri guai sono condivisi e sarebbe il caso di metterli insieme per vedere cosa si deve fare. Una ricerca dal nord al sud, dalla città alla provincia, dalla fabbrica alla campagna? Sì, assolutamente, i temi saranno quelli della, innanzitutto dei confini, perché il film è stretto tra due confini, quello nord, che ho immaginato essere quello delle Alpi, con la storia di Madina, della bambina che è morta al confine tra Croazia e Serbia, su cui si trova il teaser sempre sulla piattaforma, ed è questa appunto vicenda di confine di questa bambina molto piccola che nel tentativo di entrare in Europa, attraversando il confine, viene ricacciata indietro e muore sulla linea ferroviaria perché il treno la investe. Poi dal confine nord al confine sud, cioè i bordi del Mediterraneo, con le svariatissime vicende che ormai tutti purtroppo conosciamo, e tra questi due confini, appunto tra questi due bordi, c'è l'Italia, quindi tutte le altre storie, quelle di appunto di fabbrica, di sfruttamento del caporalato, diritti negati, insomma tutto quello che accade tra questi due estremi, tra questi due bordi. Nel percorrere queste vicende, nel fare questa ricerca, che impressioni ne hai ricavato? Innanzitutto una cosa che penso da tantissimo tempo, cioè che uno dei mali maggiori del nostro tempo sia quello dell'oblio, no? Della dimenticanza, dico una cosa banale ovviamente. Però con i social, con questo tipo di informazione, con questo tipo di fruizione delle notizie, le cose peggiorano, perché anche cose molto molto gravi durano veramente lo spazio di pochi secondi. Leggi una notizia drammatica, gravissima, e poi subito dopo quello che si è mangiato il piatto di pasta, o una notizia scema, e le cose vengono dimenticate. Ho notato che anche io stesso, come da documentarista, annotandomi le cose per svariatissimi mesi, quindi ormai quasi per due anni, ho difeso la mia stessa memoria, perché poi storie che mi erano interessate, che mi avevano colpito, anche io ovviamente l'avevo dimenticata, rileggerle è stato importantissimo. Quindi questo prima di tutto, la questione dell'oblio. E poi vabbè, come dicevo prima, un peggioramento generale, ma qui è inutile che mi dilungo perché lo sapete meglio di me, su tutto quello che riguarda gli aspetti politici e sociali di questo paese. Ci dai tutti gli estremi per partecipare a questa campagna? Sì, allora su Produzioni dal Basso abbiamo caricato tutte le informazioni, basta andare su Produzioni dal Basso, una psichedelia nera, e ci sono varie ricompense, come è solito fare su questa piattaforma, si può sostenere da 5 euro in su, e ad ogni sostegno, diciamo ogni tipo di sostegno corrisponde a una ricompensa che può essere l'acquisto della colonna sonora, così come il Blu-ray del film, eccetera. Quindi è possibile sostenerlo così, anche se ci sono delle piccole case di produzione indipendenti, delle reti di distribuzione che vogliono proporsi, vogliono aiutarci nel fare, poi nel distribuire il film, basta che ci contattino. Insomma, veramente ogni singolo, ogni persona, anche nel suo piccolo, diciamo, può sostenere il progetto. So che ovviamente ci sono variatissimi progetti che utilizzano il crowdfunding, però è anche vero che per realtà piccole e indipendenti questo sembra essere rimasto l'ultima spiaggia. Quindi è un lavoro difficile che andrà avanti fino a dicembre, questo della raccolta fondi, e speriamo insomma di catturare l'attenzione e l'interesse di più persone possibili. Allora Stefano, ci diamo appuntamento per la distribuzione di questo documentario. Intanto ricordiamo la campagna di crowdfunding per Una psichedelia nera. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Virgilio Cipressi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Con Fabio Mancini di Doc 3 per presentare la stagione estiva di Doc 3, il cinema del Reale, dall'11 luglio al 4 ottobre 2019 su Rai 3. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, grazie di avermi chiamato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Raccontaci un po' di questa stagione estiva. Questa stagione che stiamo preparando, intanto partiamo, come hai detto tu, più tardi per arrivare un po' più avanti nel palinsesto pre-autunnale, quindi copriamo l'estate e ci allunghiamo fino all'inizio di ottobre. Questo è insomma una cosa che ci fa molto piacere. Quest'anno abbiamo uno slot molto interessante.